Io prima di parlare dell'associazione volevo chiedervi che cosa vedete in questa immagine. Posso fare così? Mi dispiace. Sì, bene. No, sì, forse meglio? Meglio, meglio. Cosa vedete? Perché ho scoperto che non vediamo le stesse cose. Un albero in cammino. Un albero in cammino. Cioè, sul dorso di un essere umano, sotto delle ramificazioni di un albero probabilmente, il dorso umano tiene un bastone nella destra, la sinistra non si vede, un cielo tempestoso. Un cielo tempestoso, sì. Cosa? Non ho capito, scusa. L'ombra di un uomo che fa. Anche l'ombra, sì. Sei la prima ad averla vista, l'ombra. Ma l'albero è statico però, non cammina di solito. Ma quello sì. C'è uno sforzo immane, almeno io vedo uno sforzo immane di questo albero che è sempre rimasto in un posto nel cercare di spostarsi, muoversi e camminare. Perché cammina questo albero? Ma albero o uomo? O è un albero che sta diventando pian piano uomo? Con un aiuto. Con un aiuto. Prego. O è l'uomo che sta mettendo radici? Ma potrebbe essere secondo te un uomo che mette radici? No, dalla grinta che ha, no. Non so. Ma no, sembra un uomo in movimento questo, sì. Per cui non è un uomo che mette radici. Era per dire una cosa diversa. No, beh, giusto così, certo. Ma no, questo effettivamente è più un albero che cerca di togliersi dalla propria staticità e cerca di provare qualcosa che non ha mai provato prima. E forse sta andando verso un luogo migliore. Perché il luogo dov'è non credo che sia molto, almeno forse anche da questo cielo plumbeo non è un bel posto. Beh, insomma, questa era un'immagine per farci riflettere sull'importanza del camminare, e che a me piace molto, per quello, anche quello è vero. E diciamo che ormai oggigiorno ci sono vari motivi che ci spingono a camminare, e non solo per ci sono tanti benefici, diciamo, che porta il camminare, e benefici per la circolazione, ma anche per lo stress di cui ci liberiamo pian piano. E camminare aumenta le possibilità di incontri piacevoli, perché insomma camminando, uscendo, ci si apre anche nei confronti degli altri, e ci sono tutta una serie di benefici fisici, come fa bene al cuore, migliora la circolazione, ci rende attivi, manteniamo il peso corporeo in modo controllato. Devo dire anche, e non è da sottovalutare in questo periodo, che camminare è ancora lo sport più economico e alla portata di tutti. Allora, cos'è il Nordic Walking? È capovolgere il tavolo e imparare a camminare nuovamente. Questo è preso da una frase, preso da una poesia di Pablo Neruda, perché il Nordic Walking, con il Nordic Walking dobbiamo imparare nuovamente a camminare. È un tipo, un modo diverso di camminare. A tutti sembra che sia così facile muoversi con i bastoncini. Molti dicono, noi ci siamo sempre mossi con i bastoncini in montagna, e non sembra una novità. Eppure il Nordic Walking è diverso. I bastoncini non sono più solo un appoggio, ma ci servono per spinta in un altro modo. Ecco perché questa foto, non sono pazza. Ecco, il Nordic Walking è una camminata naturale perché non c'è niente di artificiale e sportiva. Di sicuro la falcata è più ampia e vi è una apertura delle braccia. Ecco, anche i bambini lo possono fare, a tutte le età si può fare il Nordic Walking. Qua volevo farvi vedere le caratteristiche un attimo del Nordic, approfittando di questa foto. Vedete, la falcata è più ampia, non è lo stesso modo di camminare che sia in città o... Scusa. Qua. La rollata del piede, vedete, il piede si usa mettendo bene il tallone per terra e spingendo fino sulla punta. Le braccia, che noi ormai non cominciamo a non usare più tanto, perché quando camminiamo in città siamo rigidi, siamo dritti, siamo fermi, perché è più elegante camminare così. Però in questo modo le persone si sono disabituate all'uso delle braccia. Le braccia sono sempre in opposizione alla gamba e vedete che ampiezza di braccia. E le mani qui sono chiuse e qui sono aperte, sono sia i piedi che le mani fungono come una pompa, ecco perché la circolazione del sangue viene molto migliorata da questo tipo di attività. E per non parlare dei benefici che si hanno sulla schiena, molte persone vengono da noi perché sono mandate dai fisiatri, dai fisioterapisti o dai medici, perché per vari problemi alla schiena che hanno, e consigliano appunto di fare Nordic Walking. E effettivamente ci sono dei benefici, perché camminando si rinforzano in questo modo, oscillando le braccia e facendo ruotare un po' la schiena, e si rinforzano e si sciolgono anche i nervi della schiena. E cioè si sciolgono i nervi, si rinforzano i muscoli della schiena. E ecco, questo era brevemente le caratteristiche del Nordic, che però non è facile prendere due bastoni in mano e incominciare a camminare in questo modo. Però il Nordic non è solo un beneficio fisico, non ha solo dei benefici fisici, ma è anche altro. E noi siamo fortunati perché, appunto, come diceva la signora, viviamo in questa zona fantastica. E come si fa a non approfittare per andare fuori dalle porte di casa e vedere questi spettacoli dove lo stress se ne va, se ne va già di suo. Ecco, col Nordic si può andare anche in montagna, diciamo che il terreno più consono per il Nordic è la pianura, però si può usare anche in montagna facendo, diciamo, un trekking anche, no? Ecco, Nordic è uno stile di vita, poi diventa, perché chi va spesso a camminare, soprattutto alle famiglie, le famiglie che portano i bambini, si trasmette loro appunto uno stile di vita. E è naturale che i bambini vanno abituati a camminare, bisogna fare tragitti che loro all'inizio possono sostenere, e poi pian piano vanno. Ci sono tante donne che dicono: no, io non potrei mai andare in montagna perché i figli non camminano. Però insomma, bisogna veramente andare pian piano. Se è uno stile di vita della famiglia, anche i bambini lo assorbono. E purtroppo ce ne sono tanti che non camminano. Ecco, però appunto per i bambini credo che sia la cosa più bella poter giocare all'aperto piuttosto che con un attrezzo in mano. si stimola molto la fantasia perché fanno di tutto con i bastoncini. All'inizio non camminano, all'inizio i bastoncini li usano. Come spada, come storie, scoprono cose, insomma. Le spade arrivano adesso. qui abbiamo portato, io e Pino abbiamo portato il Nordic Walking a scuola. A scuola, sì. Abbiamo, questa è una terza media, abbiamo, diciamo che lì abbiamo presentato il Nordic come un'attività salutare e abbiamo fatto studiare ai ragazzi la teoria del Nordic Walking e poi abbiamo fatto provare loro. Sono stati bravi perché hanno provato, anche se a questa età i ragazzi sono un po' scettici su questo tipo di sport e di movimento in genere, insomma, perché però si sono messi in gioco e hanno partecipato. Qualcuno ha anche detto che non gli piaceva questo sport, ma si può accettare, dopo che uno ha provato, si può accettare. Ecco, è anche sfidare i propri limiti, qui diciamo siamo all'inizio, qui siamo andate di notte in montagna, quattro amiche, e insomma per noi è stato uno sfidare i nostri limiti, perché non era normale per noi andare di notte in montagna, ma quando una passione ci accomuna è facile anche fare cose che non si sono mai fatte prima. Diciamo che il Nordic ha incominciato a prendere sempre più piede, qui siamo in Bassa Tesina, ecco, questo non vi ho detto, noi ci siamo costituiti come associazione Nordic Walking Alto Adige quest'anno a febbraio, e però prima eravamo istruttrici e operavamo ognuna diciamo nel suo territorio indipendentemente. Anzi, vi presento anche quelli che sono qui dell'associazione: Manuela Martini. Buonasera. Lei è l'istruttrice che si occupa della zona di Merano, e anche Patrizia. E doveva venirne un altro della zona di Bolzano, ma non c'è, ma quando arriverà lo presenteremo. E io mi occupo della zona di Bolzano e anche della Bassa Tesina. E, diciamo, ecco, qui in Bassa Tesina abbiamo incominciato, prima giravo sempre da sola, poi a un certo punto sempre più gente ha incominciato a provare questa attività. Ecco, con il Nordic si fanno tante cose, anche facciamo ginnastica. Si può fare ginnastica, fitness. In Bassa Tesina abbiamo delle ore dedicate solo alla ginnastica, all'allenamento, diciamo. Però ci sono anche attività, per esempio qui a Bolzano dovrebbero partire delle giornate in cui un istruttore accompagna le persone a fare delle camminate. È divertimento perché, appunto, come dicevo prima, in compagnia ci si diverte sempre poi alla fine. È bello anche fare le cose da soli, però ogni tanto bisogna anche trovarsi insieme agli altri. Ecco, questo è il Nordic allenamento che facciamo a Egna. Ecco, non dimentichiamo sempre i nostri panorami, perché siamo veramente fortunati di svolgere un'attività all'aperto. E ecco, qui questo è l'istruttore di Bolzano, Carlo, sì, che non è ancora arrivato. E qui eravamo in Lombardia insieme a Deborah Compagnoni, perché anche Deborah è diventata un'istruttrice della scuola italiana Nordic Walking. E allora, insomma, abbiamo potuto conoscerla. Ecco, qui siamo al Cristo Pensante di Passo Rolle, di cui noi andiamo spesso in questa zona, perché Pino Della Sega è stato lui a a creare questo Cristo, ma io non dico niente perché dopo lui parlerà, vi farà vedere questo progetto che ha realizzato. E accompagniamo gruppi spesso e volentieri anche lì, perché il Cristo pensante c'è rimasto nel cuore, insomma. Ecco, io sono ho una formazione storica anche, e di conseguenza cerco di unire sempre il camminare nelle zone anche con la storia della zona stessa, perché secondo me camminare e conoscere la storia del posto in cui cammino significa consolidare le proprie basi, insomma. È molto più bello, devo dire, camminare e conoscere la storia piuttosto che camminare e guardare e basta. E vedo che anche alle persone che vengono a volte vengono più per sentire la storia che per camminare, ma questo qui siamo sul ponte di Gleno, comunque a sopra Egna, e sulla croce del Castellazzo. Abbiamo tra il resto montagne che sono ricche di storia, e di conseguenza come si fa a camminare senza conoscerla? Anche perché sì, conoscere la storia ci insegna a sapere dove andare. Ecco, qui abbiamo fatto attività insieme ai disabili, e lì abbiamo imparato forse più noi che loro di Nordic Walking. È stata un'esperienza molto toccante. Però loro si sono divertiti molto. Ecco, questa è la prima gita che abbiamo organizzato a febbraio, quando appunto siamo partite con l'attività del Nordic Walking. Abbiamo camminato dal lago di Caldaro ai laghi di Monticolo, e è stata veramente una bella giornata. Siamo andati sulla Laguna di Comacchio e abbiamo visitato questa zona, siamo andati al mare anche perché è bello, bello camminare sulla spiaggia. Ecco, e la felicità è vera solo se è condivisa, e io spero che la nostra associazione vada avanti ancora a condividere queste piccole gioie di camminate. Ecco, questo è il nostro logo, e ci riconoscete per questo logo, perché lo useremo sempre, insomma. Abbiamo anche un sito www.nordicwalkingaltoadige, su quale potete trovare tutte le nostre iniziative e contattarci anche se siete interessati. E direi che per il momento sì. Ecco. Ops. Allora, sì. Adesso sì. Sì, adesso lo dico. Adesso io lascio la parola a Pino Della Sega. Noi ci siamo conosciuti come istruttori ancora anni fa, e poi Pino Della Sega insieme a un altro istruttore di Roma hanno fondato la Scuola Italiana Nordic Walking, e io sono passata in questa scuola, diciamo, che adesso è la più grande d'Italia. E devo dire che lui ha un passato di sportivo, 17 volte campione nazionale di orienteering, ma è maestro di sci, di snowboard, e appunto ha fondato questa scuola italiana, e ha scritto vari libri e ha voluto che il Cristo pensante venisse messo sul Monte Castellazzo. Però ecco, adesso vi racconterà lui. Mi sentite se parlo così o uso il microfono? Allora, innanzitutto grazie per l'ospitalità dei ragazzi della biblioteca per le belle parole che ha detto lei. Ringrazio poi la Letizia per avermi portato qui a Bolzano, è la prima volta che arrivo a Bolzano a fare una presentazione, quindi per me è anche un onore. Ecco, questa sera, prima di iniziare a parlare, vorrei far partire un piccolo filmatino per fare un riassunto di quello che ha spiegato lei di cos'è il Nordic Walking. Il Nordic Walking non è solo movimento, ma è soprattutto grandi emozioni, perché quando siamo in mezzo alla natura, è la natura stessa che ce le fa vedere, insomma, non bisogna essere ciechi per non vederle, no? Ecco, dopo questo filmato inizierò col racconto partendo un attimino dal Nordic Walking ancora per arrivare fino al mio ultimo progetto, che è il trekking del Cristo Pensante, che se qualcuno non ha sentito parlare poi vedrete questa sera. Si può chiudere la luce? Ciao a tutti, sono Pino della Sega, oggi vi porterò nel magico mondo del Nordic Walking. Seguitemi e vi insegnerò tutti i trucchi e le tecniche della camminata con i bastoncini. Ecco, questa era la prima bozza del DVD che voglio fare io come sul Nordic Walking. Allora, la Letizia ha parlato fin d'ora dei grandi benefici che ha il Nordic Walking. In effetti è vero, perché finalmente la gente ha capito che camminare fa bene. I dottori cominciano a dire che bisogna muoversi, no? Anche perché viviamo in un mondo dove oramai il muoversi è una cosa immaginaria, a parte qualche appassionato che va ancora in montagna, ma vi posso assicurare, io vengo dalla Val di Fiemme, il cuore delle Dolomiti, e si vedono sempre meno persone che camminano in montagna. Insomma, i giovani soprattutto sono spariti. I giovani che sono diventati dei grandi viaggiatori, però navigando su internet, su Facebook, no? Girano il mondo stando seduti, sì che ci ritroveremo ex giovani fra 30 anni, bei cicciotti col diabete, con malattie cardiovascolari, e quindi io credo che sia giusto che anche i dottori incominciano a parlare del Nordic Walking, ma del camminare in genere, proprio come prevenzione, perché il prevenire non costa niente, il curare è quello che costa, no? Quindi bisogna proprio riuscire a mettersi in moto. Ecco, io ho sempre una mia filosofia, da quando ho iniziato a camminare seguo sempre queste tre regole, che sono tre grandi aforismi. Il primo è di Pablo Neruda: lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine. Darwin diceva: non è la specie più forte che sopravvive, ma quella più reattiva al cambiamento. E i nostri nonni, anche se non avevano studiato, aveva capito che chi si ferma è perduto, no? Quindi sono tre concetti che soprattutto nei nostri tempi sono più che mai attuali, perché viviamo in un mondo che continua a cambiare in modo vertiginoso, no? È veramente difficile arrivare a star di dietro, no? Però io dico, se almeno non ci proviamo, rischiamo veramente di essere tagliati fuori. Questo vi dico perché, come maestro di sci, quando si è presentato il Nordic Walking in Italia, la mia categoria l'ha praticamente quasi ripudiato, no? Nel senso che sembrava una stupidaggine, sembrava un gesto banale, no? Invece non avevano capito niente, perché il Nordic Walking invece è una grande cosa, soprattutto può farlo tutti, sicché noi abbiamo milioni di italiani che possono incominciare a camminare coi bastoncini. Ecco, io invece ho voluto subito provare, prima di dire no, non mi piace, voglio provarla la cosa, no? Perché quando ho preso in mano questi bastoncini, calcolate che io già nel 73, quando ero atleta delle Fiamme Gialle di Predazzo come fondista, usavamo i bastoncini d'estate per allenarci nella corsa in montagna, camminata in montagna, perché servivano comunque per andare a lavorare con la parte superiore. Infatti il Nordic Walking è nato negli anni 30 nei paesi scandinavi, quando gli atleti dello sci di fondo d'estate usavano i bastoncini, perché negli anni 30 non c'erano palestre, quindi o facevano i boscaioli o camminavano con i bastoncini, insomma non c'eran tante alternative, no? Ecco, la mia esperienza che ho sul Nordic Walking: io faccio circa 5.000 km all'anno di camminata senza correre, no? Ho migliaia di ore di formazione per fare i nuovi istruttori. Ho realizzato tre libri sul Nordic Walking, soprattutto ho fatto tesoro delle esperienze degli altri, perché il mio motto è questo: quando sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un'altra. Allora non smetti mai di crescere, no? Perché tante volte pensare di avere una qualifica, di esserla sopra tutti, è la cosa più sbagliata, no? Perché alla fine non sei nessuno, no? Poi incontri, come diceva lei, magari un gruppo di ciechi, li porti a camminare e ti accorgi che non vali niente, no? Cioè che ti insegnano veramente tante cose che non pensavi, no? Soprattutto un percorso fatto di ascolto del proprio corpo, prima di tutto. Il Nordic Walking, mi posso assicurare che è una fotografia del vostro corpo, ma soprattutto anche della propria mente. Il Nordic Walking diventa un viaggio dentro noi stessi. Io cito sempre una frase di John Muir che dice: ero uscito per fare una camminata, ma rimasi fuori fino al tramonto perché mi accorsi che l'andar fuori era in verità un andar dentro, no? Tante volte si fa fatica a uscire di casa, magari per il freddo, il brutto tempo, perché magari si è stanchi anche dal lavoro, però dopo 100 metri di cammino tutto si apre, E tante volte si vorrebbero fare ancora più chilometri, anche se magari bisogna tornare a casa per cena, no? Ecco, questo per dire che veramente il camminare ti apre la mente, te la predispone a recepire tutti i segnali che abbiamo della natura. Ecco, io dicevo, ascolto del proprio corpo e della propria mente, in un cammino fatto di ascolto. Quante volte abbiamo il tempo di fermarci davanti a questi panorami, no? Se pensate che c'è gente che prende il biglietto d'aereo, va fino a Parigi, paga il biglietto del Louvre per andare a vedere un quadro come questo. Quando noi questo quadro lo possiamo vedere gratis tutte le sere, però il gratis non dice nulla e quindi non lo guardiamo mai, no? Per dire, no? Dove è arrivata la mentalità dell'uomo, no? Ecco, viaggiando nella natura si impara veramente a guardare con gli occhi del cuore, no? Soprattutto poi chi ti ascolta capisce comunque che quello che dici è quello che sei, perché altrimenti la gente se ne accorge. Non puoi dire che il Nordic Walking fa bene e magari avere una pancia così, o metterti a fumare un pacchetto di sigarette come fanno tanti dottori, no? Andate in certi ospedali e vi dice, guarda, devi calare, no? E poi è là così. No, no? Sì. Però glielo dice un dottore e si mette a calare, non glielo dico io che camminare fa bene, non mi ascolta, no? Io dico sempre ai miei istruttori, guardate, se voi insegnate il Nordic Walking, smettete di fumare, no? Perché poi li vedi con la cica in bocca, no? È brutto. Dico, ma cosa stai a insegnare che il Nordic fa bene quando poi fai l'esatto contrario, no? Non esiste una cosa del genere, piuttosto vai a farti la canna invece che insegnare il Nordic Walking, voglio dire, no? Ma non trasmettere quello che non sei, perché tanto poi la gente ti vede e se ne accorge, no? Quando ho cominciato io a guardare con questo nuovo, con questa nuova occhiata? Quando nel 2004 ho tracciato il trekking delle leggende, sicché in Val di Fiemme abbiamo tracciato questo mega giro di trekking di 200 km con 16.000 metri di dislivello, è uno dei trekking più richiesti sul mercato tedesco. L'abbiamo tracciato in 59 ore di cammino interrotto senza dormire, sicché quattro amici, una sfida di paese. E abbiamo continuato a camminare, ma con una bella camminata, no? Sicché dopo 50 ore io mi sono accorto che il mio fisico non aveva più voglia né di mangiare e nemmeno di bere gli integratori, no? Sicché ho cominciato a dire, cavolo, sono stanchissimo, mi mancano ancora 10 ore di camminata, avevo messo in dubbio se farcela o meno. Invece è successa una cosa incredibile, il mio fisico aveva bisogno di una cosa sola. Secondo voi cosa? Dormire non potevo perché bisognava camminare. Cosa secondo voi? L'aria. L'acqua. L'acqua. Io ogni volta che trovavo una sorgente mettevo giù i pugni e bevevo. E ho fatto le ultime 10 ore come un razzo, no? Sicché finito il trekking mi sono detto, cavolo, noi atleti siamo sempre là che guardiamo cosa mangiare, non mangiare, mettere dentro integratori per andare più veloci, no? Quando alla fine chi ha creato la natura aveva già pensato a tutto e questa era la prova, no? Sicché da quel giorno ho messo da parte il cardiofrequenzimetro, mi sono dimenticato delle prestazioni, ho detto basta, non mi interessa più guardare il cronometro quando arrivo sulla cima, e mi sono comprato la macchina fotografica e ho cominciato a fare questi scatti, nonostante che non sono un fotografo, insomma, io la uso in automatico, però insomma le foto diventano lo stesso, no? Ecco, quello è stato il momento in cui ho cambiato il mio modo di vedere la natura, ho rallentato. Ho capito che solo rallentando si può vedere, no? In questo momento ho capito che puoi giocare con la natura. Quando la rallenti, segui i suoi insegnamenti, tutto ti diventa facile. Vedi delle cose, io la luna non l'avevo mai vista in quella maniera, no? Si può ascoltare il suono del silenzio. Tante volte mi sono detto, ma cos'è sto suono del silenzio? Per me era una canzone di Simon Garfunkel, The Sound of Silence, bellissima. Però non era altro, no? Mi dicevo, ma cos'è sto suono? Ma che cazzate dicono, no, in queste canzoni, no? Invece adesso incomincio a sentirlo e vi posso assicurare che è una musica stupenda. Si sente il vento, si sentono i fiori che col vento vibrano, no? Però bisogna riuscire ad essere in sintonia. Ecco, e quando si è in sintonia con il proprio io più profondo, e questa sintonia viene proprio star fuori, camminare, guardare, ascoltare, no? Ti accorgi che non sei te che guardi la natura, ma è lei che ti osserva, perché l'uomo per natura è un conquistatore, no? Quando vede un cocuzzolo lo deve andare su a mettere una bandiera, no? Per far vedere che comunque è lui che domina, no? Ma invece non è così, noi siamo questo piccolo puntino, basta un colpo di vento, una malattia per spazzarci via. La natura è là da milioni di anni e resterà ancora per milioni di anni, no? Quindi io dico, bisogna entrarci rispettandola e soprattutto cercando di imparare qualcosa da lei, perché è sempre là che ci controlla quello che facciamo. Ecco, quando hai capito questo concetto arriva sempre l'illuminazione, io la chiamo illuminazione, ma è l'idea creativa, no? Perché io mi sono accorto che solo con il cammino riuscivo ad aprire la mia mente. Quando stavo per iniziare a scrivere il primo libro nel 2006 sul Nordic Walking, premetto, io non ho uno studio da dire scrivo un libro, no? Perché ho fatto la terza media, poi ho fatto 2 anni da segretario d'azienda, no? Poi ho iniziato a gareggiare, quindi non ho più studiato. Però mi accorgevo che quando camminavo, quando ero sulla cima, mi venivano queste idee, questi pensieri positivi, e mi dicevo, ma cavolo, ma da dove vengono? Non mi sembra di averli, no? E gli dico, poi tanto vado a casa e me li scrivo, no? Invece arrivavo a casa, come entravo in paese, dimenticavo tutto regolarmente. No? Ma dico, com'è possibile? Se erano talmente limpidi, belli, no? Allora il giorno dopo ritornavo, dopo un quarto d'ora, gli stessi pensieri uguali ritornavano, no? Ciò che voleva dire che c'era un fattore che li faceva scaturire, no? E questo era solo il cammino, no? Però avevo preso un accorgimento, come diceva il Signore, mi ero preso carta e penna e come arrivavano me li scrivevo, no? Poi la sera sviluppavo il capitolo sul Nordic Walking, no? E così ho scritto il libro sul Nordic Walking. Ecco, ho capito che il cammino va oltre, no? Libera la mente e fa fare delle cose a noi che altrimenti sarebbero impossibili, no? E mi sono inventato il brain walking. Secondo me il brain walking è il futuro del cammino, no? È la ricerca di qualcosa che abbiamo nella mente, perché noi della mente usiamo il 10%, se va bene, gli scienziati arrivano al 12%, no? Ecco, sicché pensate voi se riuscissimo a intaccare quel qualcosa che è ancora per noi sconosciuto, no? Ecco, camminando, vi dicevo, mi ritrovo nelle stesse sensazioni di quando sono di notte nei sogni o nel dormiveglia, solo che nel dormiveglia stai talmente bene che non ti alzi a scrivere, no? Però vuol dire che c'è comunque un fattore che lo scaturisce. Non ho inventato niente, ecco, il brain walking, perché 3000 anni fa la scuola dei peripatetici grechi facevano le lezioni camminando. Non avevano capito che piuttosto che stare seduti dietro una scrivania, camminare rendeva molto più che star fermi, no? Ecco, se Aristotele arrivasse adesso probabilmente gli metterei i bastoncini, no? Dovrebbe adeguarsi anche lui, no? È una battuta questa, cioè sono dei grandi personaggi. Comunque io col brain walking ho sviluppato un mio brand e sto lavorando molto bene con atleti professionisti, qui sono con Ivan Basso e la Liquigas. Ogni anno loro mi richiedono 3 giorni di formazione col brain walking, sì, che mi rinchiudo al Passo San Pellegrino e usciamo fuori nel bosco con le ciaspole a fare Nordic Walking e Orienteering, no? Nel caso della Liquigas serve per sviluppare il lavoro di squadra, no? Siccome è una squadra ciclistica, quindi per loro è più importante avere una grande squadra affiatata piuttosto che avere dei singoli campioni, e vi posso assicurare che funziona. Però normalmente mi arrivano questi signori, grandi manager di aziende, per fare la formazione, magari l'azienda si dimentica di dirgli di portarsi la tuta da ginnastica e mi si presentano così in giacca e cravatta, io li porto nella foresta con i bastoncini da Nordic Walking, e quello che succede in 2 giorni è incredibile, perché innanzitutto abbassano le difese, no? Non sono più dietro una scrivania col grande capo là in fondo che parla e nessuno osa alzare la voce perché per paura di far le valigie, no? Nel bosco invece si accorgono che anche il grande capo si perde con l'orienteering, non è coordinato coi bastoncini, quindi dicono la loro. Tante volte l'idea o la proposta comunque di quello che conta meno, intrecciata a quella di un altro, è l'idea vincente per portare avanti la creatività in un'azienda, no? Perché purtroppo adesso nell'azienda e nel lavoro non c'è più creatività, tutti fanno un copia e incolla e nessuno riesce comunque a proporre qualcosa di nuovo. Ecco, dal brain walking nasce il mio progetto, che è il trekking del Cristo pensante, di cui adesso vi racconto la storia, poi vi farò vedere anche il filmato. Il trekking del Cristo pensante, non so se qualcuno l'ha già conosciuto, comunque si trova nella zona dolomitica di Passorolle, che è praticamente a cavallo fra la valle di Fiemme e la valle del Primiero, e questo è Cristo Pensante. La storia nasce 30 anni fa, era il 1984, io mi trovavo a far gare di Coppa del Mondo con la squadra nazionale, prima in Cecoslovacchia e poi in Polonia, no? Sicché finita la tournée di competizione di Coppa del Mondo, abbiamo deciso di fare 2-3 giorni di vacanza, sicché era il 15 d'agosto, la mattina siamo andati a Częstochowa, perché era il giorno della Madonna, a vedere il quadro della Madonna Nera, e poi il pomeriggio abbiamo deciso di far visita a Varsavia. Siamo arrivati per caso su questa piazza, io sono questo, avevo un po' più di capelli, insomma, no? Su quella piazza stava nascendo il movimento di Solidarnosc, no? Sicché io ero già militare con la Guardia di Finanza, però mi sono schierato dalla parte dei sacerdoti, dei lavoratori e degli studenti che stavano manifestando contro il regime comunista. Ecco, gli anni 84-85 sono stati forse quelli più a rischio, perché erano gli anni proprio del conflitto nucleare, sì, che l'Unione Sovietica stava incominciando a perdere qualche colpo e c'era il rischio che incominciasse a mettere in giro le atomiche, no? Fortunatamente non è stato così. Comunque su quella piazza c'erano questi due personaggi, lo sconosciuto elettricista di Danzica, Lech Walesa, e padre Popielusco. Padre Popielusco 2 mesi dopo è stato ucciso dal regime comunista, no? Io quella sera, passeggiando per Varsavia, vidi questa piccola statuina di legno, e quando vidi questo Gesù rimasi folgorato. Non me ne fregava niente della religione, perché a 24 anni hai tutt'altro in mente, per me era girare il mondo per fare competizioni, però vedere questo Cristo umano, no, come noi, mi ha fatto innamorare, perché dico, finalmente vedo un Cristo che non ho sempre attaccato sulla croce, che da 2000 anni non fa niente. Questa è stata la mia idea, no? Cioè che avevo pochi slotti e li ho adoperati per portarli a casa con la statuina. Dopo quello che ho fatto, adesso capisco che comunque quel Cristo sapeva già dove andare a finire, perché altrimenti non è possibile che io a 20 anni acquistassi un Cristo sofferente, no? Questo è il Cristo sofferente, poi l'ho chiamato io pensante, rappresenta il Gesù appena frustato nelle celle dai romani di Ponzio Pilato, in attesa il giorno dopo di salire per essere crocifisso, no? Passano 30 anni, io lo lascio la statuina sulla stufa Ole, in bella mostra, ogni tanto la guardavo, mi ricordava i periodi di quando andavo a gareggiare, probabilmente lui invece mi vedeva arrivare, di sfar le valigie e ripartire, no? Però era sempre là in attesa. Poi nel 2006 scrivo il primo libro sul Nordic Walking e col mio editore decido di ripercorrere la Val Venegia, il posto dove avevo fatto le fotografie del libro. Sicché una mattina di luglio incominciamo a camminare e quel giorno succede di tutto e di più. Arriviamo al sentiero che porta al rifugio Mulaz e facciamo il primo incontro strano. Sicché incontriamo 6 frati francescani col saio, i sandali, i bastoncini che cantano. No? Sicché io guardo il mio editore e dico, ma Giovanni, in tutti questi anni che sono stato in montagna non mi è mai capitato un incontro così, anche un bel incontro simpatico, no? Però era solo il primo, perché facciamo altri 2 chilometri, arriviamo nel cuore della Val Venegia, questa è la strada che porta poi alla Baita Segantini, che tutti forse avrete già visto. Ecco, arriviamo nel cuore della Val Venegia e facciamo il secondo incontro. Io vedo in un prato un signore e penso a un turista che sta mangiando un panino. Poi mi avvicino e mi accorgo invece che si era tolto le scarpe, sotto le ginocchia aveva messo il maglione. A quel punto mi rendo conto che sono davanti a un musulmano che sta pregando, no? E io quando lo vedo sono rimasto meravigliato. Innanzitutto mi sono vergognato, perché dico, io passo qua tutti i giorni e lui sotto le mie montagne, venendo da migliaia di chilometri, si mette a pregare. Io qua che passo tutti i giorni non ho mai detto grazie, no? Anche perché tante volte un grazie è già una preghiera, se vogliamo dire, no? Grazie per quello che abbiamo, per la salute che ci permette comunque di fare quello che ci piace, no? Ecco, da questo momento il mio cervello ha incominciato a viaggiare a 1000 all'ora, no? Prima pensavo poco, da questo momento ho cominciato a girare vertiginosamente, soprattutto quel giorno ho cominciato a pensare cosa potevo fare per portare i giovani in montagna. Questo era il primo pensiero che è arrivato, no? Perché tutta la giornata è stata improntata su questo pensiero, no? Ogni tanto gli dicevo all'editore, ma potremmo proporre di far Gardaland in Val Venezia, no? Così almeno i giovani arrivano, no? Però insomma era una cosa assurda, no? Insomma arrivo a casa la sera, niente da fare, non mi viene in mente niente, no? Perché le nostre montagne sono vuote, come vi dicevo prima. C'è la nostra generazione, ma poi i bambini piccolissimi, obbligati dai genitori, però poi dai 15 ai 30 anni non c'è più nessuno, no? Però non viene fuori niente, sicché mi faccio il bagno bollente, come faccio sempre per tirar fuori le tossine, mi sdraio sul divano e l'occhio mi cade sulla piccola statuina e arriva l'idea. Quanto è alta? 20 centimetri. E arriva l'idea, faccio il trekking del Cristo pensante, però non sapevo cos'era, cosa dovevo fare, sicché era arrivata l'idea, però non sapevo cosa fare, no? Vado a dormire e dico tanto il giorno dopo, magari sono un po' meno stanco, mi verrà in mente qualcosa, no? Il giorno dopo alle 7 di mattina sono Passorolle, sicché incomincio a individuare questa montagna, questo è il Monte Castellazzo. Monte Castellazzo io non l'avevo mai salito perché quando eravamo con le Fiamme Gialle a fare allenamenti sia d'estate che d'inverno, per noi questa era un cocuzzolo, una piccola montagnola che non valeva la pena di essere salita, perché in 20 minuti di corsa si arriva sulla cima, no? Per noi la montagna era la Marmolada, o comunque tutto il gruppo dei Monzoni, o da questa parte Cimon della Pala, no? Là ti dava soddisfazione. Però quel giorno qualcosa mi chiamava su quella cima, e io vado sulla cima del Castellazzo per la prima volta. Quando sono sulla cima mi si apre il cuore, dico qua sono nel posto più bello che ho visitato, perché mi trovavo davanti al quadro, perché se io voglio vedere il quadro che è rappresentato dalle pale di San Martino, devo mettermi davanti. Non devo andare sopra il telo perché non vedo niente, no? Mi metto davanti, il Castellazzo era la vetrina per le pale di San Martino. Ma non solo, da là si riesce a vedere a 360 gradi tutte le montagne dell'Alto Adige, il Brenta, il Lago Rai, la Marmolada, il Latemar, no? Sicché da là hai la visione completa, no? Sì. Tra il Castellasso e la montagna che si vede dietro c'è la Val Venezia. C'è la Val Venezia, che arriva alla Baita Segantini, passa dietro, sì, no? Sì, sì. C'è la Val Venezia, no? Sicché in quel momento mi sono arrivati due pensieri che poi non mi ha più lasciato e uno continua ancora a tenere banco. Il primo è, questa è la casa del Cristo pensante, no? Convinto di mettere là il Cristo pensante. E il secondo pensiero, quello forse più bello, che mi meraviglia anche adesso, soprattutto mi viene quando trovo gli ostacoli, che il Cristo pensante si porterà dietro tutto e tutti. E perché si porterà dietro tutti e tutti? Perché su quella montagna c'è una storia particolare. Innanzitutto è una roccaforte della prima guerra mondiale, voi sapete che il Trentino fino al 1917 era Austria, quindi è stata durante la guerra mondiale una roccaforte austriaca, poi siccome era considerata indifendibile l'hanno lasciata agli italiani, no? Però quella montagna ha una caratteristica, si trova in Primiero. Io sono della Val di Fiemme, sicché pensare che uno della Val di Fiemme possa fare qualcosa in Primiero era una cosa impossibile, no? Quei campanilismi che ci sono dappertutto, sì. Calcolate che quegli anni erano degli anni particolari, perché ogni volta che l'azienda per il turismo di Primiero vedeva che quella di Fiemme faceva un dépliant con la foto del Cimon della Pala, partiva la lettera dell'avvocato dicendo che loro che sono di Fiemme non possono usare le foto del Cimon perché il Cimon è del Primiero, no? Ma era una lotta furibonda, sicché questo era il primo ostacolo. Ma il secondo qual era? Che mi trovavo in Trentino nel parco naturale di Paneveggio, e in più il Monte Castellazzo era la zona protezione integrale. No. Zona protezione integrale vuol dire che non puoi uscire dal sentiero, non puoi mettere uno stuzzicadente senza essere denunciato. Ma hanno ragione, perché Monte Castellazzo è questo, fra un mese, in luglio, è questo, è veramente uno dei posti stupendi. È un tripudio di colore, dall'arnica alla stella alpina, alle campanelle, alla negritella. Sì, che queste l'ho fatte io, non uso Photoshop, quindi potete farle tranquillamente anche voi. Questa è la fioritura dell'arnica. Ecco, comunque io quel giorno ho i miei bastoncini e li metto nel punto in cui decido di mettere il Cristo pensante, sicché già dal primo giorno io individuo quel punto, il Cristo pensante doveva andare là. Il giorno dopo, ecco, queste sono ancora le trincee della prima guerra mondiale, il giorno dopo torno sul Castellazzo, però questa volta non sono più da solo, mi porto dietro la piccola statuina di legno, perché dovevo fare le prime prove a vedere se andava bene il Cristo pensante, no? Sicché incomincio a salire da tutte le ore, lo fotografo da lontano, da vicino, con la nebbia, col sole, con la pioggia, no? Durante le fotografie al computer la sera mi accorgo che nello stesso viso del Cristo pensante c'è anche sulla montagna, sulla parete della Bureloni, no? La coincidenza, però, insomma. Però sentivo comunque che c'era qualcosa che non andava in questo Cristo, no? Non ero soddisfatto ancora. Una sera sono sulla cima aspettando di fare le fotografie al tramonto, tiro fuori la thermos dallo zaino per bere un tè e appoggio la statuina vicino sulla cima, una piccola croce di legno della prima guerra mondiale, no? L'appoggio là e poi bevo. Come alzo la testa vedo riflessa sulla montagna di là l'ombra della croce, e con a fianco c'era qualcosa di piccolo sotto la croce, no? Non capivo cos'era, poi guardo l'occhio, era la piccola statuina di legno, no? Sicché ho capito in quel momento che dovevo mettere anche la croce, no? Sicché vado da uno scultore di Predazzo, mi faccio rifare il calco e mi faccio mettere una croce, e qui cambia completamente tutto, perché si è scatenato un putiferio a livello di sacerdoti e di curia, no? Perché un Cristo così teologicamente non esiste. Un Cristo che è stato crocifisso e poi è sceso dalla croce dopo 2000 anni, a pensare, non esiste, no? Difatti, come è cominciato a girare l'idea del Cristo pensante, è uscito subito un articolo della Curia Trentina, in prima pagina dell'Adige, dove un sacerdote, un teologo di 80 anni, diceva: questo Cristo pensante sta facendo mormorare tanto nei piani alti della Curia Trentina. C'è una corrente di preti a favore e un'altra corrente contro il Cristo pensante, però c'è un dato di fatto, che anche quelli contro sono andati a vederlo di nascosto. Allora c'era una domanda, diceva: ma perché per una volta non possiamo pensare che il Cristo non sia dalla parte del Pino? E questo è stato uno stimolo per me per continuare, anche perché pochi giorni prima avevo proposto l'idea al Vescovo di Trento e lui proprio in maniera cattiva mi aveva liquidato con non approverò mai, no? E basta, non mi ha detto altro, no? Però anche in quel momento è arrivato il pensiero: il Cristo pensante si porterà dietro tutto e tutti, sicché io col nuovo calco vado avanti, incomincio a salire, al tramonto lo fotografavo da lontano che sembrava quasi reale, anche se era piccolo così, per prepararmi una prima presentazione in PowerPoint, no? Perché dovevo prima cercare di convincere la Val di Fiemme, l'azienda per il turismo di Fiemme, di venirmi dietro, no? Sicché un giorno mi presento dal direttore Bruno Felicetti, gli dico: senti Bruno, siediti che ti faccio vedere qualcosa di bello, gli faccio vedere una piccola presentazione che avevo fatto. Lui la guarda, poi mi dice: sì, bella, come dire, guarda, vai a casa perché ho qualcos'altro da fare, no? Però io ero contento, esco, neanche farlo apposta, esco dalla porta e c'è un arcobaleno incredibile, ho fatto una fotografia di quell'arcobaleno che è incredibile. Sulla porta incontro il presidente Piero De Godens, che fra l'altro è anche il presidente del comitato campionati del mondo di sci di fondo che ci sarà nel prossimo inverno. Lo saluto, lui vede che sono agitato, entra dal direttore e gli dice: ma cosa aveva il Pino che era così agitato? E il direttore gli dice: il Pino le deve entamate. Queste testuali parole, no? Però me l'ha detto 4 mesi dopo, eh. Però Bruno Felicetti è un direttore di quelli, secondo me, 10 anni avanti a tutti gli altri, no? Sicché lui la sera va a casa, metabolizza bene quello che ha visto e capisce che comunque era qualcosa di completamente diverso da quello che propone il turismo al momento. Sicché lui mi chiama e mi dice: guarda, da qua in avanti io ti starò vicino, fai quello che vuoi, ti do carta libera. Sicché riesce a convincere il comitato dell'azienda di Fiemme di fare qualcosa, di investire su quello del primiero, sicché già là una cosa stranissima, no? Perché però bisognava andare a convincere quelli di primiero, però, perché il problema era quello, no? Cioè che abbiamo incominciato le riunioni, non vi dico quante riunioni, io abitavo quasi in Primiero piuttosto che in Fiume. Alla fine siamo riusciti a convincerli che questo comunque era un progetto valido per tutte e due le vallate, anche perché il Passo Rolle è una montagna stupenda, però non va più su nessuno, sta morendo, no? Cioè che anche loro, per forza o per voglia, comunque hanno accettato, no? Però bisognava convincere quelli del parco, e quelli del parco hanno detto subito di no, perché era zona integrale. Sì che anche là ci sono voluti un po' di lavori, no? Per metterli d'accordo. Io ho provato a interpellare altre persone, hanno fatto pressione, alla fine insomma hanno accettato di acconsentire, no? Però non bastava, bisognava farsi avere l'autorizzazione dei due comuni, perché neanche farlo apposta, il Cristo nel comune di Tonadico, la croce che è un metro più in là è nel comune di Siror, perché il confine passa proprio in mezzo, no? Cioè che bisognava far staccare due licenze edilizie dai due comuni, e anche là si sono volute 10 riunioni, no? Alla fine ci siamo riusciti, no? Nel frattempo io vado avanti, individuo il materiale su cui fare il Cristo pensante, il marmo bianco di Predazzo, perché anche noi abbiamo il marmo, non è quello di Carrara, si chiama Predassite. Ma fra l'altro la Predassite è una storia strana, perché era il sasso più odiato dagli atleti delle Fiamme Gialle, perché era in uso, in usanza, ma anche adesso, quando l'atleta veniva dismesso perché non aveva più risultati, gli regalavano un pezzo di sasso di Predassite con una targhetta con su scritto: grazie per i tuoi risultati. Però era il ben servito, no? Sicché era odiato da tutti, perché nel momento in cui lo vedevano sapevano che venivano mandati via, avevano finito di fare gli atleti, no? E invece io ho voluto fare il Cristo pensante, no? Sicché mi prendo un camion e vado e mi prendo questo masso lasciato là da 30 anni, perché una cava di marmo dismessa, era il marmo usato nelle lapidi dei cimiteri o comunque negli altari delle chiese, no? È un marmo con delle striature nere di antracite, che però rende il Cristo pensante bellissimo quando piove, diventa nero. Poi quando prende di nuovo il sole e l'aria, torna di nuovo candido, no? Sicché lo porto nella cava di Predazzo, questo è il proprietario, allo scultore gli dico: guarda Paolo, qua dentro c'è un Gesù seduto, tiromelo fuori. No? Sicché lui si mette a lavorare per 4 mesi, prima l'abbiamo sgrezzato, vedete colore dell'antracite, l'abbiamo sgrezzato, abbiamo tolto le parti più grosse, e poi lui in 4 mesi me l'ha finito. Io andavo dentro tutti i giorni, mi dicevo: ma guarda Paolo, che gli hai fatto i piedi che sembra che abbia i mombù questo Cristo, no? Allora lui si incassava, buttava il mazzotto per terra e mi diceva: allora se volevi un Cristo perfetto dovevi prenderti Michelangelo, no? Però poi alla fine ritornava, insomma, è stato bravo e me l'ha finito, no? Cioè, finito il Cristo, io ero già contento come ne avesse finito senza rompersi, perché ogni volta che batteva col martello si staccava via magari un chilo di marmo, perché è molto friabile, no? Un giorno di luglio mi chiama l'architetto che seguiva il progetto e mi dice: Pino, guarda che fino adesso non abbiamo risolto niente, perché l'ultima parola deve essere data dalla commissione dei servizi della provincia di Trento, perché questa purtroppo è zona protezione integrale, io mi ero dimenticato all'inizio, no? Sicché alla fine di luglio convochiamo la conferenza dei servizi della provincia, sicché tutela dell'ambiente, beni archeologici, la SATI, il CAI e tutti quei servizi che ci sono in provincia, no? Io gli espongo il progetto e tutti dicono di no, tutti. Il direttore dell'azienda per il turismo mi dice: Pino, cosa stiamo qua a fare? Insomma, questi qua sono quelli che devono dare la parola finale, no? Silenzio assoluto, nessuno diceva più niente, no? Per fortuna questo signore della tutela dell'ambiente salta fuori con la sua sparata e dice: io sono contrario perché un Cristo su questa montagna è deturpante. E quello mi ha fatto impazzire, no? Innanzitutto volevo prenderlo e buttarlo giù, la prima reazione che ho avuto, volevo prenderlo e buttarlo giù perché non doveva dire una cosa del genere, no? Poi mi sono calmato, mi sono avvicinato, l'ho guardato in faccia e gli ho detto: senta dottore, lei con i 4.000 euro che prende ogni mese dalla provincia a non far niente dalla mattina alla sera, se non fumarsi il sigaro qua nella zona protezione integrale, perché aveva il sigaro in bocca, no? si ricordi che se qui manca il turismo, lei fa le valigie e se ne va a casa, no? Nessuno parlava, perché abbiamo incominciato a scendere dalla montagna e io ero super incazzato, no? Arriviamo giù dove ci sono le grotte della prima guerra mondiale, lui mi si avvicina e mi dice: guarda, se proprio, anche se gli altri diranno sempre di no, io posso consentire di fartelo mettere in una galleria della guerra, così uno se lo vuol vedere deve andare dentro e chi vuol passare su non lo vede almeno, no? Gli ho detto: dottore, senta, nella galleria metto dentro lei e butto anche via le chiavi, no? Perché il Cristo merita di andare sulla cima dove vi ho portato prima, no? Fatto sta che gli accompagno alla capanna Cervino, perché già la mattina quando sono scesi dalle panda della provincia mi ero accorto che avevano il no sulla bocca, no? Lo scopo della gita era mangiare polenta e lucaniche alla capanna Cervino, no? Sicché io li lascio là e salgo da solo sulla cima del Castellazzo, che aspetto il tramonto, e per la prima volta ho capito qual era la strategia, anche perché quel pensiero, il Cristo pensante, si porterà dietro e tutto e tutti, è arrivato di un lampo, no? Sicché io salgo e ho capito che dovevo fare solo una cosa: chiedere. Sicché vado su e gli dico: hai sentito, erano qua in 10, nessuno ti vuole. Io sono arrivato fino qua, più in là di qua non riesco, sicché se vuoi arrivare su, dammi una mano. Mi alzo e arriva l'idea che non poteva essere mia, perché era una parola che non conoscevo, non era nel mio vocabolario. Gioca sull'anticipazione. E dico: cos'è questa anticipazione? No? Poi sono andato a vedermi su internet. L'anticipazione è una delle peggiori trappole della mente, no? È quando uno si mette in mente di fare qualche cosa, poi se non lo realizza cade in depressione e va sotto cura. Però io in quel momento non lo sapevo, sicché incomincio a pensare: anticipazione, ma cos'è sta storia, no? Man mano che scendo, ormai era buio perché avevo aspettato il tramonto, una dietro l'altra arrivavano le idee, che vi dico, non potevano essere mie. La prima è questa: vai a casa e registra il sito www.trekkingdelcristopensante.it e incomincia a mettere dentro tutte le fotografie che hai fatto con la piccola statuina. Seconda idea: convinci l'azienda per il turismo di Fiemme a fare un dépliant e fallo veicolare in Vaticano. Neanche farlo apposta, il giorno dopo mi chiama il direttore e mi dice: Pino, abbiamo l'opportunità di portare il Cristo pensante in Vaticano con i presepi della Val di Fiemme. Allora io gli butto là subito l'idea della brochure, e neanche a farlo apposta, 50.000 copie di dépliant a Natale vanno in Vaticano con i presepi, no? Ma la terza idea, quando ormai sono in fondo alla montagna, forse la più sconvolgente, che è questa: scrivi a tutte le riviste possibili come se il trekking del Cristo pensante fosse già attivo da un anno. Cioè che io per 2 settimane mi metto a scrivere, gli mando la relazione col percorso, le tappe dove potevano mangiare, il tempo di percorrenza, cosa vedevano, le fotografie, tutte con la statuina piccola, no? E cosa è successo? Che la primavera dopo salivano al Cristo, sul Castellazzo, a vedere il Cristo pensante, ma il Cristo pensante non c'era. Io ero ancora su con lo zaino e la statuina a far fotografie, perché tanto le autorizzazioni non arrivavano. Come li vedevo arrivare, perché arrivavano su pullman interi da Piacenza, Bergamo, Pavia, nascondevo la statuina in fretta e osservavo, e vedevo il capogita che girava come un satellite, col giornale in mano a vedere le foto se trovava una corrispondenza, no? Però non vedeva niente, sicché alla fine veniva là da me e mi chiedeva: ma siamo sul Castellazzo, no? Ma dov'è il Cristo pensante che ho letto qua sul giornale, no? Io gli dicevo: ma probabilmente non lo vedete perché non avete abbastanza fede. però durava poco, no? Perché vedevo che si arrabbiava, no? Allora mi scusavo, gli dicevo: guarda, sono il Pino, quello che l'ha ideato, però purtroppo qui a parco le autorizzazioni non sono arrivate. Se volete vederlo dovete passare a San Martino di Castrozza o a Predazzo sulla piazza, a seconda del periodo, e là lo vedete. Sì, che loro tornavano, gli davano un'occhiata, però quando arrivavano a casa, a parte che durante il viaggio poi se ne sentivano di tutti i colori dagli altri della gita, no? Come capogita, no? Però una volta a casa cominciavano a scrivere al presidente della provincia, al Delai, ai vari assessori al turismo, dicendo: non è possibile che una realtà turistica forte come il Trentino metta in giro una bufala del genere. Sì, che io avevo tutti i giorni la segretaria che mi chiamava mi diceva: Pino, ma smettila di fare queste cose perché sta succedendo il finimondo, no? I direttori delle aziende avevano i capelli sudditi perché erano bastonati dalla mattina alla sera, e invece io ho continuato perché ho scritto Il Resto del Carlino la domenica della sera alla Famiglia Cristiana, e sono usciti tutti questi articoli, no? Però mi sono accorto quando abbiamo fatto la seconda conferenza di servizi a Trento perché dovevo giocare sull'anticipazione, solo in quel momento l'ho capito. Perché abbiamo fatto di nuovo la conferenza, questa volta a Trento per evitare di pagargli la polenta, e tutti hanno detto di no, di nuovo, sì, che tutti i dottori hanno detto no, non siamo d'accordo. Allora il direttore di Fiemme mi dice: guarda Pino, adesso io non me la sento più di tenerti la scala perché rischio il posto di lavoro, non so che... da qua in avanti io non ci sto più. Gli dico: Bruno, sento che sta per succedere qualcosa. Neanche finito di dire, si alza quello della SAT e dice: ma signori, come facciamo a dir di no al Pino quando da 2 anni la gente va a vedere il Cristo pensante? Non solo li abbiamo presi in giro, adesso non glielo mettiamo neanche più. Praticamente in quel momento ho capito che con l'anticipazione li ho messi in una condizione che non potevano più dire di no. E questo non è un caso, perché non poteva essere una mia idea, no? Fatto sta che hanno approvato il trekking del Cristo pensante. Nel frattempo incomincio a salire sul Castellazzo per raccogliere il filo spinato della Prima Guerra Mondiale da mettere sulla testa, la corona di spine. Che salgo una sera con la statuina ancora, perché mi mancavano le fotografie con la luna piena. Fatte le fotografie alle 10 di sera, incomincio a arrivare sulla nebbia sul Castellazzo, incomincio a scendere con mio amico molto religioso, no? Sicché incominciamo a sentire abbaiare un cane. Era il mese di novembre, a Passorolle era tutto chiuso, quindi cani non potevano essercene, no? Io guardo mio amico e dico: ma che strano, no? Si aveva proprio l'impressione che sto cane richiamasse la nostra attenzione, no? Sicché ci fermiamo e capiamo che quell'abbaiare veniva da molto più lontano, veniva dal passo del Valles, da Malga Valazza, che era ancora aperta, si vedevano le luci, no? A quel punto il mio amico mi racconta un fatto successo il 29 settembre del 2003, sì, che quasi 10 anni prima. Mi fa: sai Pino, che a Malga Valazza, il 29 settembre del 2003, c'è stata un'apparizione a un veggente brasiliano della Madonna. E io gli dico: ma dai Mauro, ma cosa mi stai a raccontare? Sono di Predazzo, vuoi che non abbia sentito? E mi fa: guarda, c'è stata l'apparizione, ha lasciato anche dei messaggi, c'erano su migliaia di persone quel giorno, se vuoi te li faccio vedere, no? E mi racconta il ritrovamento di una cosa, e mi fa: sai che c'era questo signore, un camionista di Treviso, tutto ad un tratto si ammala di distrofia oculare a tutti e 2 gli occhi, nell'arco di 1 mese è cieco, non si che perde il lavoro, lui era ateo completo, la mamma gli regala un biglietto sul pullman per Medjugorje, si che lui va a Medjugorje più per fare un favore alla mamma, e torna a casa guarito, no? Torna a casa guarito, ma non solo, con un pensiero di fare una croce di legno e portarla a Malga Valazza, al passo del Valles, no? Sicché lui si mette a fare questa croce, e un giorno arriva in Malga col suo furgone e la scarica, sicché c'è il malgaro qua, Marco Jager, che quando lo vede corre là e gli dice: ma cosa stai facendo? Guarda che questa è la mia Malga, no? E lui gli dice: guarda, io sono stato a Medjugorje e da quando sono guarito io ho un forte pensiero di portare qua questa croce, sicché dimmi dove metterla, altrimenti vado su io e te la metto in mezzo. Sicché arrivano fino dove c'è il primo capitello dedicato a San Michele, e poi il malgaro davanti incomincia ad andare verso sinistra, no? Perché gli sembrava un posto che non desse fastidio, no? Come fa 2 o 3 passi rimane bloccato a sinistra, non riesce ad andare, sicché incomincia a sudare, a tremare, non capisce il perché a sinistra non riesce a camminare, è bloccato completo. Verso destra invece può tranquillamente muovere i passi, sicché va verso destra, si ricorda il percorso che aveva fatto il veggente brasiliano per arrivare dove c'è il capitello della Madonnina, e a metà strada individua il posto dove mettere la croce, sicché inizia a scavare con le mani e sente subito una puntura, pensa a una vipera. Invece va là con lo stivale e vede che è una coroncina perfettamente rotonda e saldata di filo spinato della Grande Guerra, no? Sicché lui la prende come un segno e la fa mettere sopra la croce, no? Però il mio amico non mi ha raccontato un fatto che se l'avrei saputo io non avrei osato andare a chiedergli la corona. Sicché quando sento questa storia dico, cavolo, quella è la corona del Cristo pensante, perché c'è il collegamento con Medjugorje. Sicché il giorno dopo alle 8 mi presento in Malga, gli dico, guarda Marco, quello è il Monte Castellazzo, no? Io voglio fare il Cristo pensante, sono venuto a chiederti la corona di spine che hai trovato 10 anni fa. E lui si arrabbia e mi dice, se quella corona di spine sparisse da quel posto, io vengo a Predazzo e non ti dico quello che ti faccio, perché mi ricorda mio figlio, perché quando l'ho trovata era morto da mio figlio in Malga appena 2 mesi prima, no? Sicché ritrovare quella corona era come ritrovare un segno del suo bambino, no? Ogni mattina si alzava, la guardava e gli sembrava di avere suo figlio Martin, che era morto da pastorello di leucemia fulminante, no? Sicché incomincia lui a raccontarmi tutta la storia della sua famiglia, delle tragedie di bambini, una roba incredibile che poi riporto anche nel libro. Io non sapevo se scappare o sprofondare a quel punto, però vedevo che comunque lui si sfogava a raccontare, no? Aspetto che finisca, gli do il mio bigliettino e gli dico, guarda, scusami, non sapevo di questo fatto, altrimenti filo spinato ne ho, però se cambi idea sarei contento di avere quello da mettere sulla testa. E lui mi fa, guarda, stai pur tranquillo che quella corona rimane a Malga Valassa, no? Io vado, mi dimentico, arriva il giorno di Natale, sono in seggiovia, stavo iniziando le lezioni di snowboard e suona il telefono. Pronto, sono Marco di Malga Valassa, ho parlato tanto in famiglia con mia moglie e con i miei figli e abbiamo deciso di darti la corona di spine, sicché prima che ci ripensi vai a prendertela. Io il giorno di Santo Stefano vado su alle 7 di mattina prima di iniziare a fare scuola di sci, la taglio col tronchesino e me la porto a casa e la faccio mettere sulla testa del Cristo pensante intrecciata al mio filo spinato, no? La croce è fatta in una lega del ferro, il corten, che è quella che vedete sui gualdrai, che si arrugginisce, più passa il tempo e più si arrugginisce. Pesa 700 kg, non ha nessun portante perché per l'estetica ho preferito mettergli 8 micropali fissi dentro una roccia, no? Ha una caratteristica, innanzitutto ci sono i 3 chiodi, quindi l'occhio che vede bene vede che il Cristo è stato crocifisso e poi è sceso a pensare, no? Poi ho fatto mettere 2 fessure, la prima per i pensieri più intimi, chiusa col lucchetto, dove la gente imbuca i bigliettini con i loro pensieri, i loro problemi, i loro sogni, no? Ho solo io la chiave, quest'anno ho fatto senza scrivere i nomi, in anonimo, il libro, pensieri dal libro di Veta, vi posso assicurare che ci sono dentro delle poesie, no? Poi da questa parte c'è la cassetta con dentro il libro di Veta vero e proprio che trovate su tutte le montagne. Poi ho fatto un'insenatura aperta con delle lamine di ottone che ha due significati. Il primo rappresenta lo Spirito Santo e il secondo, quando il sole al tramonto gli batte dentro, sembra che la croce si incendi. Il Cristo invece pesa 20 quintali, marmo bianco. Le parole che ho scritto sotto sono di Madre Teresa di Calcutta: trova il tempo di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di sorridere. A dire il vero, Madre Teresa aveva scritto trova il tempo di ridere, però non mi piaceva, ho preferito mettere sorridere, no? Però la parola chiave è trova il tempo, perché è il tempo che non riusciamo più a trovare, no? Sotto il Cristo pensante, nel cemento, ho messo un'urna con dentro i materiali dei luoghi più sacri del mondo, sicché dalla terra di Betlemme, all'acqua di Lourdes, al leccio di Fatima, ai sassi di Medjugorje, le conchiglie del lago di Getsemani. No? Arriva il giorno della benedizione, sicché il Cristo si trova ancora a Predazzo, e quel giorno succedono 2 fatti importantissimi per la storia del Cristo pensante. Si affaccia sulla scena questo personaggio che è Paolo Ebrosio. Io Paolo lo conoscevo già da 6 anni, perché lo portavo a camminare coi bastoncini quando veniva a Predazzo a rilassarsi in vacanza, no? Sì che l'ho conosciuto quando era il Paolo succube della mamma Anna, no? Quello che diceva la mamma era Lese, no? Poi l'ho conosciuto quando è venuto da sposato con la fotomodella Gretel, erano due colombi, e l'ho conosciuto quella mattina quando l'ho portato a camminare, era disperato, lui, io sono stufo della vita, ho tutto ma non ho niente, sono nella droga, nell'alcol, della prostituzione, no? E invece alle 11 di mattina sotto il Cristo pensante ha fatto un discorso sulla vita incredibile, sì, che io lo guardavo e mi dicevo, ma come, va bene che sei un giornalista, no? Però stamattina mi dici che la vita non è più niente, adesso parli della vita come se fosse la cosa più bella, no? Però in quel momento non ci ho fatto caso. Ci farò caso 3 mesi dopo, quando lui mi chiama. Nel frattempo avevo saputo che si era convertito a Medjugorje, no? E lui mi chiama e mi dice, Pino, parlami di quel Cristo pensante che non mi ricordo niente. E io gli dico, ma Paolo, guarda che hai fatto un bellissimo discorso. E lui fa, ma guarda, quel periodo era il periodo più nero, perché come ti avevo detto, mia moglie che era incinta mi aveva detto che il bambino non era il mio ma era del bagnino, no? Quindi pensate voi, insomma, che Paolo era, no? Voglio sapere tutto dal Cristo pensante. Poi gli dico, Paolo, era il 25 di luglio, giorno di San Giacomo. Gli dico solo queste due parole e lui incomincia a piangere al telefono. E gli dico, ma cos'hai? Mi fa, guarda, adesso ho capito tutto, perché il 25 luglio è un anniversario di Medjugorje, il 25 luglio è San Giacomo a Predazzo, ma è San Giacomo anche a Medjugorje, quindi lui ha fatto due conti e ha incominciato a capire che comunque qualcosa in lui era già cambiato in quel giorno, no? Neanche a farlo apposta entra in campo un terzo San Giacomo, che è il patrono del paese del miracolato di Medjugorje, sì, che in un attimo entrano in campo 3 San Giacomi, una coincidenza stranissima. Paolo torna, quando ci sarà il Cristo pensante con me a vederlo, scriverà il libro Un passo dal baratro, non so se voi l'avete qua, è stato il libro più venduto in Italia nel 2010 con 400.000 copie, e mi dedica il capitolo La corona di spine del Cristo pensante, con la storia che vi ho raccontato adesso, no? Io col Paolo vado spesso a Medjugorje, qui c'è anche la Claudia Kohl, no, lui è cambiato completamente, eh? Però quel giorno di San Giacomo succede un altro fatto incredibile, che è questo: io sto smontando i rami di Sirmolo perché il giorno dopo il Cristo partiva per San Martino di Castrozza, che incomincio, sono le 4 del pomeriggio, incomincio a sudare, un'ansia tremenda, mi gira la testa e arriva un pensiero. Vai a Bellamonte, Bellamonte è distante 6 km dal mio paese, e porta il generale Valentino a vedere il Cristo pensante prima che parta. Sicché io prendo la macchina, 5 minuti dopo suono il campanello e lui viene fuori in mutande perché era andato a dormire. Generale Valentino è uno dei grandi personaggi, perché è stato presidente della Federazione Italiana Sport Invernali per 12 anni, è il presidente degli sport invernali più medagliato, poi è stato vicepresidente del CAI e comandante in seconda della Guardia di Finanza. Io con lui non avevo mai parlato, anche se era stato il mio comandante quando era a Predazzo, no? Quando mi vede mi dice, no, coi bastoncini non vengo perché sono troppo vecchio, perché probabilmente mi vedeva fare lezione nei prati sotto, no? Gli dico, guardi generale, non volevo parlare del Nordic Walking ma del Cristo pensante, sì, che lui si incuriosisse e mi dice, guarda, siccome non ho niente da fare, dai che vengo con te a vederlo, sì, che lo porto davanti alla statua, e lui davanti alla statua si commuove. E gli dico, cosa succede generale? Mi dice, guarda, mi hai fatto il più bel regalo che potevi farmi, perché mi hai riportato indietro di 60 anni. Quando io, da tenentino della Guardia di Finanza, sul Monte Castellazzo, ho incontrato per la prima volta mia moglie, che era di Passorolle, e me la sono sposata. E il Monte Castellazzo per noi era il posto dove andavamo a raccogliere i fiori. Sicché lui si innamora del Cristo pensante, però in quel momento non mi serviva assolutamente a niente. Sicché io lo porto a Bellamonte e del generale mi dimentico. Però me ne accorgerò un anno dopo, perché ero andato a prenderle. No? Nel frattempo mi arriva la comunicazione dell'architetto, che aveva ricevuto una lettera dal parco dove mi intimavano di non muovere un sasso sulla cima del Castellazzo, perché mi vedevano passare su tutti i giorni, segnalato, avevano paura che combinassi qualcosa. Invece io cosa faccio? Mi porto su da solo e aiutato anche da qualche mio amico, oltre 3.000 kg fra cemento, sabbia e acqua e me li nascondo nell'antecima, nelle fessure di roccia, no? C'erano dei giorni che andavo su anche 10 volte, mi caricavo lo zaino con 30 kg di cemento e poi lo portavo su, no? Ogni tanto gli dicevo ai miei amici, dai che andiamo a fare una camminata, loro salivano in macchina, arrivavano a Rolle, tiravano fuori il, suo zaino, il loro zaino dalla macchina e gli dicevano, no, lo zaino non serve, lasciatelo qua che ve ne do io uno, no? Gli davo lo zaino con i 30 kg, non so che in qualche maniera l'abbiamo portato su. Arriva il mese di novembre e cosa faccio? Inizio gli scavi, sì che in una zona protezione integrale incomincio a fare la gettata. Questa è la cassetta con dentro i materiali dei luoghi più sacri, no? Faccio la gettata, sì che alla fine di novembre nella zona protezione integrale, nonostante che avessi avuto la lettera del parco, avevo gettato una soletta di cemento. Per fortuna quella notte è venuto mezzo metro di neve, ha coperto tutto, no? Però io dico è strano perché là ci sono 20 forestali che girano. Il capo dei forestali un giorno a mensa aveva detto il Pino pensa di portare quel Cristo su quella montagna, ma dovrà passare sul mio cadavere, no? Sicché è stranissimo che nessuno mi abbia visto. Ancora adesso non me ne rendo conto, no? Fatto sta che arriva la neve, passa l'inverno, arrivano le due licenze edilizie finalmente dei due comuni ed è giunto il momento di portarlo con l'elicottero, perché il presidente della provincia ci aveva promesso l'elicottero che stava acquistando proprio in quei mesi, no? Un nuovo elicottero a doppia pala, perché per portare quel peso su quella cima bisogna avere un doppia pala, no? Io ero tranquillo e invece i primi di giugno il presidente dell'AI chiama il direttore e dice guardate, dimenticate il Cristo pensante perché purtroppo la gara d'appalto è saltata e l'elicottero non si compra più, no? Che cercate un'altra soluzione. Io ho provato a telefonare in Svizzera, un elicottero che di solito porta i tralicci per gli impianti di risalita, però quella primavera non aveva lavori, quindi farlo venire apposta costava 24.000 euro, no? Perché non c'erano i soldi, niente da fare. Un giorno vado su sulla cima con un boscaiolo a vedere se con una teleferica si poteva fare il lavoro. Lui fa tutti i calcoli, ha detto va bene, impiegheremo un mese, però tra materiali e ore di lavoro ti costa come far venire l'elicottero, no? Quindi abbandonata anche questa, telefono ai miei amici per vedere se c'era qualcuno disposto a portarlo come gli egiziani a spalla, no? 20 quintali. 20 quintali, dico magari qualcuno mi dà una mano a portarlo sulla spalla, ma ho capito quali sono i veri amici perché si sono tutti, si sono tutti diliguati, no? Ecco, per la prima volta ho temuto di non farcela. No? Oramai ero là, no? Anche perché sia in Primiero che al mio paese tutti mi deridevano, erano contenti che non l'avrei fatta, no? Allora cosa faccio? Ancora una volta salgo sulla montagna al tramonto, mi siedo e gli dico cavolo, abbiamo fatto 99, non puoi mollarmi adesso, cioè sarebbe una barzelletta se non mi dai una mano adesso, no? Mi alzo e suona il telefono. Pronto, sono il generale Valentino. E allora ho capito perché un anno prima l'avevo portato a vedere il Cristo. E lui mi dice, Pino, ho sentito che avete problemi con l'elicottero. Vuoi che ti dia una mano? E io quasi per stuzzicarlo gli dico, generale, guardi, io mi sono informato su internet, gli unici 4 elicotteri che possono portare quel peso sono i Chinook dell'esercito e sono tutti 4 in Afghanistan in missione di pace. E lui mi fa, guarda, non preoccuparti perché questo è un dettaglio, no? Ho ancora un po' di conoscenze a Roma, sì che mi dice, domani mattina vieni a casa mia che facciamo la lettera. Nel frattempo ha telefonato al presidente del CAI, il professor Annibale Salsa, l'ha messo al corrente di questa cosa, ha ottenuto la sua firma per la lettera e il giorno dopo abbiamo fatto la lettera al sottosegretario alla difesa, il ministro Ramponi, che era stato tenente del generale quando era in servizio, no? Una settimana dopo ricevo una telefonata, pronto, sono il maggiore De Prospero della Brigata Antares di Foligno, ho avuto l'ordine di portare il Cristo pensante sulla vetta. No. È stato un colpo inaspettato anche perché 10 giorni dopo a Siviglia c'era il convegno che sanciva le Dolomiti patrimonio dell'umanità, quindi quella era l'ultima data per poter fare il Cristo pensante e il 16 di giugno arriva il Chinook. No. Completamente gratis. Ecco, adesso vi farò vedere anche il filmato, sì che il generale per un giorno ritorna quasi a comandare, no? portiamo il Cristo col camion a passerolle e poi iniziano i lavori per indragarlo. Questo è l'ultimo volo del Cristo per arrivare sulla cima, che qui sono gli 8 bulloni dove dovrà andare dentro la croce. Prima portiamo sul Cristo, non facciamo nessuna fatica, l'unica paura era che non prenda colpi, che si spaccasse. Ecco, messo il Cristo, arriva il turno della croce. Sicché la croce è stata un'operazione molto più difficile, perché il pilota via radio mi ha detto: guarda Pino, io faccio solo 2 tentativi, perché questa operazione in gergo degli elicotteristi si chiama overing, no? È un'operazione difficilissima, perché infatti tieni presente che questo è un elicottero che può portare un carro armato, però non può rimanere ancorato al terreno per più di mezzo minuto, perché va in stallo, che con la potenza che ha delle eliche si tira via l'aria da sotto e rischia di cadere, no? Sicché mi fa: io faccio solo 2 tentativi, il primo se riesce bene, altrimenti faccio un giro di 10 minuti per rilassarmi, poi torno e faccio il secondo tentativo. Sicché lui arriva, è il primo tentativo, la croce va dentro nei buloni, però cosa succede? Che l'elicottero si sposta un po' avanti e mi piega tutti i buloni, no? Sicché io sono questo nero, no? Sono là che provo a tirarla su, ma era impossibile, no? Avrei voluto 700 kg, no? Sicché è una roba impossibile, no? Cioè a quel punto dico: è andato tutto a remengo, non ha mai mi ha piegato i buloni. Invece adesso vedrete anche nel filmato cosa succede: l'elicottero va indietro di quei 20 metri e la croce cade dentro, mi raddrizza tutti i buloni di nuovo e rimane perfettamente, no? Del comandante del Chinook non ho più avuto notizie se non un mese fa, sì che dopo 2 anni lui mi scrive una mail e mi dice: quando incredulo ho sganciato quella croce, ho pensato, non è possibile, qualcuno è intervenuto, mai avrei pensato di infilare 8 inviti al primo tentativo. Io poco credente, io poco praticante, forse poco devoto, forse deluso, ho iniziato a riflettere e ogni volta mi ritrovo con le lacrime, emozionato, quando rivivo quei momenti. Credo che dovrò venire a pensare da solo vicino a lui. Quindi parole scritte da un pilota che comunque è un pilota di guerra, insomma, se pensate voi l'emozione per me, no? Ecco, noi esultiamo, finalmente il mio sogno si è realizzato, ma nel momento in cui si è realizzato è diventato il sogno di tutti, no? Il percorso del Cristo Pensante parte da Passerolle, le macchine si lasciano qua, c'è la strada sterrata che porta fino alla baita Segantini. Sono 30 minuti a piedi, una strada bellissima, altrimenti c'è da luglio a settembre c'è il servizio navetta, in 5 minuti siete alla partenza del sentiero del Cristo Pensante. Il 17 giugno comunque il Nordic Walk in Alto Adige organizza una gita al passo al Cristo Pensante, chi fosse interessato. Chi vuole, magari poi chi è interessato può mettersi in contatto con lei. Sì, tramite il sito potete... Sì. Ecco, da qui parte il sentiero del Cristo Pensante, sono 2700 metri di percorso, i primi 2 km in leggera discesa e pianura, e poi alla fine ci sono 120 metri di dislivello su una mulattiera della Grande Guerra. Si arriva a quota 2333, un numero strano anche quello in tutta questa faccenda, perché 2 è la seconda figura, Cristo, 3 è la Trinità e 33 sono gli anni di Cristo, quindi 33 sono i giorni che ha fatto Papa Luciani, che è nato a 6 km in linea d'aria, Canale d'Agordo, no? Questo è il sentiero che ho trovato la prima volta che sono salito, un sentiero della SAT nel parco naturale, si facevano male anche le mucche a passare, no? E questo è il nuovo sentiero del Cristo Pensante, no? Cioè, che vuol dire anche valorizzare il territorio, perché io dico sempre: è giusto fare il parco e tutelare, però basta proibire, perché la gente è stufa delle proibizioni, no? Giustamente, se va a Passerolle deve pagare, deve prendere la multa perché parcheggia la macchina fuori degli orari, prende la multa perché raccoglie funghi, prima o poi ti faranno pagare anche l'aria, no? Giustamente vanno al mare, no? Invece bisogna insegnare la gente a come andare in montagna, non proibire, no? Ma insegnare, no? Però ci vuole tempo anche per i forestali del parco, invece che la domenica stare a casa devono girare, no? Per quello che sono incassati con me. Sì, ecco, di quei due personaggi che 30 anni prima, quando ho comprato la statuina, erano presenti su quella piazza, diciamo, padre Popielusco, che era stato assassinato l'anno scorso, è stato fatto beato, no? L'Ec Valesa, quando sente del Cristo pensante, vuol venire a vederlo, sì che io me lo ritrovo da premio Nobel per la pace, ex presidente della Repubblica Ceca, gli regalo il mio libro con la dedica: caro Lech, grazie per aver cambiato la storia. E lui mi fa questa dedica: caro Pino, io ho cambiato il corso della storia, ma te con il Cristo pensante hai fatto qualche cosa di veramente grande per la storia e per tutta la gente. Come vi dicevo prima, il Monte Castellazzo, dove non saliva mai nessuno, da Cenerentola è diventato una delle regine delle Dolomiti. No, solo l'anno scorso ha fatto oltre 150.000 passaggi. Penso. No? La terra davanti al Cristo è calata di un metro, su che anche il parco si sta preoccupando, perché in effetti ci sono troppi passaggi. No? Ecco, l'idea che mi è venuta all'inizio, che volevo portare la gioventù in montagna, si è avverata, perché il Cristo pensante è diventato il Cristo dei bambini. Ci sono centinaia, migliaia di bambini che vanno su con le parrocchie, con gli educatori, per vedere il Cristo pensante. Al Cristo pensante sono arrivati su tanti personaggi famosi: Cristo Franco Nones, la medaglia olimpica, questo è Monsignor Giovanni d'Ercole, che è vescovo all'Aquila adesso, è il vaticanista che vedevate sempre su Rai 2, che commentava tutti i servizi, no? Ecco, è venuto su con me con i bastoncini. Quando è arrivato mi ha scritto questa frase sul libro di Beta in un minuto, che è stupenda: più si sale in alto, più la croce mostra al nostro cuore la forza del suo silenzio. Il Cristo pensante sussurra al cuore di chi lo contempla il segreto della vita che ci sfugge a valle, tra la confusione delle voci e il rumore delle faccende quotidiane. Fra cielo e terra la parola si spegne nel silenzio dell'infinito e nell'armonia delle montagne, e sussurra al cuore un grazie pieno d'amore. Il 16 di ogni anno io lo considero il compleanno del Cristo pensante, sì che io salgo e gli porto una rosa. L'anno scorso l'ho trovato così. Era una giornata serena, l'ho trovato con l'arcobaleno. Se con un arcobaleno, con un giorno sereno, a 2300 metri, è veramente difficile da vedere, però me lo sono trovato così. D'inverno il Cristo è così, che è una magia, no? Per chi arriva su, anche se io lo sconsiglio, perché comunque il rischio di valanghe c'è sempre, no? Ecco, ho scritto due libri sul Cristo pensante, questo che ho qua e l'altro... sui libri di Veta, però ho esaurito. Eventualmente, se qualcuno di voi poi lo vuol prendere, ce l'ho, lo firmo. Ecco, sul libro ci sono anche delle frasi importanti, questa la prendo per me, ma comunque credo che valga per tutti: Signore, prendimi come sono, con i miei difetti e con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu desideri. Ecco, la soddisfazione più grande in questo mio progetto è stata questa: che negli anni 2000, dove stanno tentando di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche, io mi sono permesso di metterne uno di 20 quintali sulle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Ecco, questa esperienza mi ha cambiato, perché mi ha cambiato la vita. Tanti mi chiedono: ma com'è la tua fede? Io dico: guarda, se da una parte adesso ho la consapevolezza che Dio esiste, no, perché queste non sono coincidenze, perché io non posso svegliarmi una mattina e fare un Cristo pensante, non avrebbe senso, no? Però dall'altra parte ho perso la fede della Chiesa, perché le gerarchie della Chiesa sono quelle che mi hanno dato più contro, quindi per me non li considero più, no? Però questo progetto mi ha lasciato una cosa importantissima. Non so se sapete cos'è la resilienza. La resilienza è la capacità di contrastare le avversità della vita e riuscire a coglierne i lati positivi per ripartire verso altri orizzonti, no? Quando uno si trova addosso del male così, no? Bisogna che reagisca, no? Non solo per cercare di superarlo, no? Ma da quelle cose che ha ricevuto, anche se erano negative, deve trasformarle in positive, no? Cercare di valorizzare le poche cose positive per ripartire, no? Ecco, io col Cristo pensante ho aumentato la fattibilità. Praticamente le cose che prima per me erano difficili da realizzare sono diventate il punto di partenza. Praticamente ho alzato la soglia della fattibilità, no? Ecco, vi lascio questi due pensieri: se sei convinto e ci credi, se non ti arrendi e perseveri, se quando ti fanno cadere sai rialzarti, allora anche i sogni si avverano. L'altro pensiero: In futuro metterò nel mio zaino solo le cose positive e passerò davanti a quelle negative semplicemente ignorandole. Questo per dire che in questo progetto la cosa che mi ha più sconvolto è stata la indifferenza delle persone, no? Perché le persone quando fai qualcosa di bello fanno finta di non vedere niente, no? Però non combinare qualcosa perché ti saltano tutti addosso, no? Sì, che vuol dire che non è che non ti vedono, è che non vogliono vederti, no? Perché è l'indifferenza che poi si trasforma in invidia, che è la peggior cosa, no? Perché l'invidioso riesce a vedere che te stai facendo qualcosa di grande, no? Magari te non te ne rendi conto perché per te sembra normale, invece lui riesce a capire che è qualcosa di grande e per questo ti martella, no? Ma comunque Dante diceva così nella Divina Commedia, diceva: fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia disdegna, non ragionar di loro ma guarda e passa. E questo credo che bisognerebbe prenderla proprio come Vangelo, no? Di non guardare quello che dice la gente, perché altrimenti non si farebbe niente. Io dico ai miei istruttori, dico sempre: se avete un'idea non lasciatela nel cassetto che non serve a niente, no? Buttatevi, abbiate il coraggio di lanciarla, no? Naturalmente deve essere un'idea realizzabile, insomma, no? Ecco, adesso faccio partire il filmato del Cristo pensante, poi se qualcuno vuol farmi delle domande, ben volentieri. Si può spegnere tutto? Al discorso di prima, questo è un frutto del Nordic Walking. Se io avessi continuato solo a correre non ci sarebbe il Cristo pensante, sì che io dico, se volete provare, camminate con i bastoncini che vi farà bene, non solo elimina lo stress ma vi farà del bene fisico ma soprattutto quello mentale, perché abbiamo bisogno comunque di questi momenti per noi di spiritualità, di tornare un po' al lento, alle cose semplici. Alla fine le cose semplici sono quelle più belle, no? Io credo che sia questo. Il Nordic Walking è talmente semplice che sì, no? Adesso voi avete visto immagini dove c'era chi correva, chi saltava, però appunto il Nordic è anche la camminata naturale, normale, insomma, per cui non bisogna spaventarsi dalle foto. È un camminare lento. Comunque, salto da stambecco lì che... Sì, ecco, però diciamo perché fanno maggior impatto queste foto, anche nel video suo avete visto che insomma, però sì, insomma non è così, ci sono i corsi di Nordic Walking, noi insegniamo a camminare alle persone, sì, e, sì. Ecco, non insegniamo a saltare, ecco, saltiamo noi. I 15, quello qua di questa camminata, cioè che tipo di preparazione atletica bisogna avere alle spalle, cioè se uno vuole prime armi, assolutamente niente. Seguirvi, cioè, o camminate correndo? No, camminiamo normalmente. Camminata semplicissima, sì. Piano, vi insegnano i movimenti giusti, perché come tutti gli sport, si avanza in maniera efficace ed efficiente. Cioè, mi è capitato questo invito come se fosse più una di quelle coincidenze. Guarda che non le coincidenze, le coincidenze non esistono. No? Mi sono sbattuto al punto che mi sono rovinato i piedi a bolle perché sono partita in tromba proprio. Sono tutti segnali, le coincidenze sono segnali che ci mandano, che purtroppo non sappiamo leggere, diciamo è un caso, però sono tutti input che ci arrivano, bisogna ogni tanto prenderli e andare avanti, insomma, no? Comunque vi consiglio veramente, per chi non lo fa, di iniziare a far Nordic Walking. Vedrete che poi non camminerete più senza bastoncini. Io se vado in giro senza bastoncini mi sembra di essere un orangotango, perché sento che non lavoro, no? Poi si impara il coordinamento, no, ma poi la coordinazione, ma poi la stessa postura. Cioè, la postura, noi adesso, se voi guardate i nostri giovani, sono giù così, cioè sono piegati, sono così, mani in tasca, no? La postura che ti dà il Nordic anche nella quotidianità è questa. Rimani in posizione retta anche quando sei a casa. No, proprio perché ti aiuta a stabilizzare. Io puoi cominciare da tutte le età. Si può cominciare da tutte le età, no? Ma poi è veramente un divertimento. Io non lo considero neanche uno sport, è uno stile di vita. Cioè, se uno lo prova, poi se lo tiene caro, perché si accorge che comunque è un continuo lavorare. Abbiamo fatto dei test all'Università di Milano, che è una delle più grosse proprio a livello di test. Voi pensate che il primo muscolo che si mette in moto nella camminata con i bastoncini, che tutti non pensano, è l'addominale, no? È l'addominale, perché nel momento in cui pianto il bastoncino inizio a spingere, l'addominale stabilizza la colonna vertebrale, no? E fra il camminare senza bastoni e il camminare con i bastoni lavora 10 volte di più. Cioè, fatto da te, se voi pensate il lavoro, lo sapete che le calorie si bruciano in base a quanti muscoli lavorano, no? Sicché se lavoriamo così bruciamo zero, se lavoriamo con tutto il corpo continuiamo a bruciare, no? Sicché insomma. Sì, tra camminare senza bastoncini e camminare con, i passi si fanno ugualmente, però almeno ci si mette in moto tutta la parte superiore. E si tonifica. Calcolate che ogni 10 minuti di camminata normale che fate, voi fate 1000 passi. Con Nordic Walking facciamo 1000 passi e 1000 spinte, che 1000 volte ogni 10 minuti questo lavoro, voi pensate. Poi decide uno quanto spingere, no? Uno può spingere poco, ma può anche comunque lavorare tanto. Ecco, diciamo che ognuno lo fa Nordic Walking a seconda delle sue possibilità fisiche. E c'è chi lo fa per riabilitazione, c'è chi lo fa per uscire, c'è chi lo fa per uscire a chiacchierare, c'è chi lo fa come allenamento, insomma è diverso, però è uno sport che si adatta a tutti. Veramente. Lo sport è bene, uno sport, però è vero anche che non pesa quando uno sente che sta bene e dopo non pensa di uscire a fare sport, pensa di uscire per se stesso perché fa bene, e non fa fatica a farlo, però è giusto che anche usare la tecnica corretta, perché sennò i bastoncini non servono. È ben vero che con il Nordic Walking, se uno sbaglia il movimento, non è che succede niente, non è come andare a sciare, no? Se uno non fa la curva, salta fuori dalla pista e si fa male, no? Col Nordic, insomma, però giustamente è anche bello vedere uno che cammina bene, insomma. Esatto, no? E che dà un ritmo. E che dà un ritmo, no? Perché poi quel ritmo diventa. Sì, diventa. C'è anche il respiro, sì. Veramente. Ma voi camminate già con i bastoncini? Da trekking, però io facevo molta fatica per vari motivi, in discesa, in salita, e li ho presi e ho visto che andavo più veloce e con molta meno fatica, e il respiro era regolare, continuo. Era bellissimo, cioè io sono. Però è la sensazione, però questa è una cosa, io sì, non ho fatto il corso, l'ho pensato per me, ecco. E siccome io faccio già ginnastica e altre cose. Però è la sensazione di far meno fatica, perché non si fa meno fatica, perché lavorando con più muscoli, però c'è la sensazione di, fatica, certo, di distribuire il peso, che no? Sparisce. Il peso viene distribuito su quattro appoggi. Io ho lesione al ginocchio, avevo smesso di andare in montagna, soprattutto in discesa. In discesa, con l'utilizzo del bastoncino in maniera corretta, tiri via fino al 60% del carico sul ginocchio. Perché è ora di riprendere e andare in montagna adesso con i bastoncini. Ma cosa se riesco a trovare il sì, sì, no, in effetti. No, ma se voi andate già, ma sai magari cosa? Ogni tanto si può venire in compagnia, no? Sì, ho visto infatti i gruppetti. Sì, siamo abbastanza presenti. Rossi. Diciamo che il grande bacino dei Nordic Walker sono le metropoli, le grandi città, no? Perché anche la gente ha bisogno di camminare. No? All'inizio. Cominciano anche sulla spiaggia. Anche sulla spiaggia, nei parchi. Adesso, all'inizio, quando è arrivato in Italia, si era capito male, perché si pensava solo alle vallate alpine, no? Invece il Nordic è proprio della pianura, perché è in pianura che si fa il movimento allargato, no? Allora si lavora col muscolo. La Finlandia è quello che ci vuole. Certo. Tra un lago e l'altro. Ah beh, certo. Poi è anche bello perché non c'è competizione sportiva. No, difatti. Uno va come vuole, si ferma. Senza gareggiare in continuazione. Ah, certo. È un po' nella mentalità, no? La mentalità dello sport, anche nel Nordic stanno provando a mettere la competizione, però sai, sono pochi, sono fortunatamente. Certo, anche perché poi la competizione ti porta alla fine dello sport, no? Esatto. Io vedo sport come lo si diffonde, ad esempio, lo si diffonde, è uno sport stupendo, no? Però l'hanno talmente esasperato che se non hai gli sci da 500 euro, se non hai il pettorale su, se non hai la cera F per renderli più veloce, no? Come ti presenti in pista e passo lavastia e dicono, ma sto qua chi è? No? invece lo sci di fondo dovrebbe essere il camminare con gli sci, sì, con lo zainetto, fermarsi, come succedeva una volta quando comunque le piste da fondo erano piene zeppe. Adesso si vedono solo atleti. Chi è che fa fondo qua? Voi? No, io ho fatto. No? Però è così, insomma, no? Adesso è diventato tutto più veloce, ma poi arrivi a un punto che poi la gente si stufa, no? Perché alla fine corri sul lavoro, corri a casa, corri anche in pista, sì che... Ah, deve essere un benessere. Deve essere un benessere, no? Chiaramente. Comunque grazie per la serata, è stato un piacere.